La domanda. Qual è la domanda? Se solo riuscissi a trovare la domanda giusta, tutto andrebbe bene. Non potrebbe non essere così. La domanda. Una volta trovata la domanda, avrò anche la risposta. Ma deve essere quella giusta. Non può essere una qualsiasi domanda, ma quella che mi serve per avere la risposta che cerco. La domanda. Qual è la domanda? Se solo riuscissi a trovare la domanda giusta, tutto andrebbe bene. Non potrebbe non essere così la domanda. Una volta trovata la domanda, inevitabilmente avrò anche la risposta. Ma deve essere quella giusta. Non può essere una qualsiasi domanda, no. Ma quella che mi serve per avere la risposta che cerco. Ma qual è la risposta che cerco? Ecco la domanda giusta. O forse la domanda giusta ora? Perché anche il tempo è fondamentale per trovare la domanda. Dunque la domanda giusta è quanto? La domanda. Qual è la domanda? Se solo riuscissi a trovare la domanda giusta, tutto andrebbe bene, non potrebbe essere così. La domanda. Qual è la risposta che cerco? Ecco la domanda giusta. La domanda giusta ora? Dunque la domanda giusta è quanto? Sì, ma quando cosa? Quando sono finito qui? La domanda, qual è la domanda? Deve essere quella giusta, qual è la risposta che cerco? Dunque la domanda giusta è quando? Quando cosa? Quando sono finito qui? Qui? Qui dove? Occorre domandarsi questo prima di azzardare risposte troppo affrettate che potrebbero avere delle conseguenze devastanti. Dunque, dove mi trovo? C'è buio. Forse sono solo. Ma questo non sono in grado di vederlo. Non riesco a vedere quello che è intorno a me. Sembra che intorno a me ci sia qualcosa. Potrebbe anche esserci il nulla intorno a me. Potrei essere circondato da uno spazio vuoto. Potrei essere sperso su un'isola di appena 2 metri quadri circondato dallo spazio infinito, pieno di stelle, costellazioni. Ma questo lo vedrei. E invece intorno a me non vedo nulla, ma sento che al di là di questo ipotetico isolotto c'è qualcuno. Quindi non sono solo, almeno non in questo limitato spazio-tempo chiamato mondo, perché in quest'altro più limitato di 2 metri quadri invece sì, sono solo. E non posso uscire. Sì, che puoi uscire. Chi ha parlato? Io. Io chi? Io tu. Io tu? No, io te, io sono te. Credevi di essere un solo tu? Beh, fino ad ora era l'unica risposta che ero riuscito ad ottenere. A quale domanda? Questa non l'avevo ancora posta. Effettivamente ho trovato una risposta senza essermi posto la domanda. Ma tu chi sei? E soprattutto dove sei? Bene, ora hai cominciato a fare 2 domande alla volta. Non sei in grado di ottenere una risposta alla volta e speri di ottenerne 2 contemporaneamente. E poi te l'ho già detto. Io sono te. Me. Sì. E sono dentro di te. Ma anche tu sei dentro di me. In effetti siamo alla pari. Solo che in questo momento stavi parlando di più tu. Ma in quell'involucro che ci ricopre occupiamo lo stesso spazio. E non siamo mica gli unici, sai? Ah, no? No. Siamo numerosi. E gli altri dove sono? Diciamo che per ora non sono interessati all'argomento. Ma appena avranno qualcosa da dire, appena vorranno, verranno fuori pure loro, tranquillo. Per ora ci siamo io e te. Dove? Guardati intorno. Cosa vedi? Nulla. Nulla? Il buio, peggio. Allora qualcosa c'è. E cosa ti provoca questo buio? Che sensazione ti lascia? Beh, sicuramente non mi rilassa, anzi, mi crea un certo disagio, soprattutto il non sapere nulla di dove mi trovo, con chi sono e ho come l'impressione che tutto questo sia stato organizzato, come se in un certo qual modo, ma in una maniera completamente diversa, sotto un'altra forma, sia già avvenuto. Una finzione, dunque, qualcosa del genere. Sono entrato. sono. Sono in trappola e sono stato portato qui da qualcuno che però non ricordo, ma che conosco, qualcuno di familiare. Devo uscire di qui. Bene, fallo. Impossibile, non c'è via d'uscita. Ma certo che c'è. È lì, guarda, è evidente, è proprio lì. Basta che ti avvicini. No, non c'è nessuna uscita. Ma come no? È lì, guarda. No, non potrei uscire di qui. Stravolgerei l'ordine delle cose. Ti prenderebbero per pazzo, criminale, ti brucierebbero vivo, non sarei il primo. Ci sono stati tempi in cui qualcuno ha provato ad evadere, ma non è servito a nulla. E c'è stato un tempo in cui tu hai trovato una possibile uscita. Un tempo in cui hai capito che la verità non è vera. Un tempo in cui ero io. Ecco la domanda. Chi? Chi sono? Sono Wilhelm Reich. 24 marzo 1897. Durante alcune ricerche ho scoperto una forma di energia presente in ogni essere umano, in grado, se alimentata, di eliminare qualsiasi forma di tumore, compreso il cancro. Contarvi la storia delle storie, la de che pensieron tutta la storia del mondo, la storia más importante, la más hermosa, conocida por todo el mundo, la que habla de luchas. ¿Habla en español? ¿Alguien habla en español? ¿Nadie en castellano? ¿Nadie? ¿Do you prefer English? I can do English. ¿Algo francés? Facciamo italiano. 5, 6, 7. Volevo narrarvi la storia delle storie, quella che diede inizio a tutte le storie per raccontate in questo mondo, la più bella, la più famosa storia di tutti i tempi, conosciuta in tutto il mondo, che narra lotte, angosce, glorie, speranze, sofferenze e peccati dell'animale uomo, pensata e scritta in molte lingue da molte persone diverse, è il racconto delle lotte dell'umanità contro il peccato dell'umanità, e comincia presso a poco così. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto, e così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto che fanno frutto con il seme. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, alberi che fanno ciascuno frutto con il seme. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini, e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulichino nelle acque, e tutti gli uccelli alati. Dio vide che era cosa cosa buona, li benedisse, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra, e fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse, la terra produca esseri viventi, bestiame, rettili, animali selvatici, secondo la loro specie, e così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, il bestiame e tutti i rettili del suolo. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, lo benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Infine Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso cessò da ogni lavoro che egli aveva fatto, creando. Il giorno in cui il Signore Dio plasmò l'uomo, piantò un giardino in Eden. Pose poi in mezzo al giardino l'albero della conoscenza del bene e del male, e accanto a questo l'albero della vita eterna. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Poi disse, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e da quella formò un altro essere e lo condusse all'uomo. La si chiamerà donna, che domina, perché dall'uomo è stata tolta. Infine il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. E se ne andò. Ora, l'uomo e la donna, tutti e due erano nudi nel paradiso e non provavano vergogna. Ma che cosa accadde? Il serpente, che era il più astuto degli animali selvatici che Dio aveva fatto, disse alla donna, è vero che Dio ha detto che non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto di non mangiarne, altrimenti moriremo. Non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, vi si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e videro di essere nudi. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio, e l'uomo con sua moglie si nascose in mezzo agli alberi. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Ho udito la tua voce, ho avuto paura perché ero nudo, così mi sono nascosto. Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e ne ho mangiato. Che hai fatto? Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, striscerai sul tuo ventre e mangerai terra in tutti i giorni della tua vita. Poi disse la donna, e tu partorirai tra i dolori i tuoi figli e tuo marito ti dominerà. Poi disse all'uomo, poiché hai ascoltato la voce della tua donna ed hai mangiato del frutto del quale ti avevo comandato di non mangiare, col sudore della tua fronte ti procaccerai il pane, sicché tu ritorni alla terra dalla quale tu sei stato cavato, perché polvere sei e polvere ritornerai. Poi scacciò l'uomo e la donna dall'Eden e pose guardia del paradiso un cherubino con una spada roteante e fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita eterna. L'uomo del paradiso vive la vita felice secondo le norme di Dio, e se mangia i frutti di un certo albero diverrà simile a lui. Gli occhi si apriranno e conoscerà il bene e il male. Se si mangia da quest'albero e si diventa simile a Dio, perché poi si perde il paradiso? Se l'albero è quello della conoscenza del bene e del male, che male c'è a mangiare i frutti? Se si mangiano i frutti si può seguire meglio, non peggio, la legge divina. E invece l'uomo viene punito, viene scacciato dal paradiso e condannato a un'eterna condizione di miseria. Tutto ciò è semplicemente insensato. Allora forse è proibito conoscere Dio ed essere simili a Lui. L'uomo nel paradiso era nudo, eppure la donna. Dio li aveva fatti così, e i due non si vergognavano di essere nudi. Poi, improvvisamente, dopo aver mangiato i frutti dell'albero proibito, iniziarono a vergognarsi dei loro organi genitali. E il bellissimo serpente di Dio aveva sedotto una donna. L'aveva sedotta il simbolo dell'organo sessuale maschile, della sinuosa vita vivente, il simbolo del piacere. E per aver cercato il piacere sono stati scacciati dal paradiso. Pregherò per voi, uomini silenziosi, sofferenti, sognanti, affranti, tagliati fuori dalla vita di Dio, che nulla sapete e che nulla volete sapere. Sarò io a prendermi cura di voi se solo voi lo vorrete. Sarò prete, guida spirituale per mostrarvi il verbo e la strada da seguire. E se a voi non piacerà, sarò ateo, di più, profano. Sarò bestemmiatore, nemico dei preti. Diverrò re, creatore e disegnatore delle vostre leggi per riportarvi sulla retta mia ogni qualvolta questa sarà smarrita. Ma se a voi non piacerà, sarò ribelle, brigante. Parlerò con voi delle vostre sofferenze. Saprò donarvi le cure di cui avrete bisogno. Saprò darvi gioie, conforto, speranza. E se a voi non basterà, vi proporrò antidoti, ricette, pillole, droghe. E se per voi sarò un tiranno, vi proporrò la libertà. E se la vostra vita è in trappola, vi parrà un limite. Mi trasformerò in venetrice per sfogare la vostra oppressione con il sesso, con le parole, la violenza. Creerò il peccato e il delitto contro le leggi che io stesso ho fondato e lo farò solo per voi, povero popolo pietoso, giudici e boia. Toglierò la vostra libertà quando questa diverrà intollerabile. Sarò unione per le libertà civili all'interno della trappola. Fonderò partiti per conservare lo status quo nella trappola. Leggi e ordini accuratamente prestabiliti, ma a voi non basterà, mia piccola gente insoddisfatta. E allora diverrò progressista per sostenere una maggiore libertà nella trappola. Pare libertà nella trappola sarà il mio slogan. Lo pretenderò dal punto da ritornare conservatore per mantenere le leggi e l'ordine nella trappola. E se a voi non basterà, lascerò a voi la possibilità di gestire la vostra vita, di prendere le decisioni, di essere al di sopra di qualsiasi sovrano. Solo voi, ideatori e creatori della vostra propria vita. Vi lascerò anni di miliardi di tentativi a vostra disposizione finché non cadrete a terra per l'inutile fatica. Sarà allora che vi proporrò la libertà popolare nella trappola. Sarò con voi, in mezzo a voi. Urlerò le vostre stesse parole, stringendo il pugno e alzando il braccio sempre di più. Sarò il vostro undicesimo compagno, il vostro 301° amico, il vostro 1000° complice, il vostro unico leader. Salirò sopra di voi perché io sono voi, e più cresco io, più voi siete forti. Mi inebrirò delle vostre urla e ubriacherò di bottoni da premere: polizia, esercito, diplomatici, giudici, accademici, rappresentanti delle potenze straniere. E quando il gioco diverrà noioso e voi non lo vorrete più, sarò bravo, melodioso, a proporvi dignità e ritegno che si addicono a qualsiasi buono e vecchio conservatore. Mi assumerò le vostre responsabilità dicendo sì o no a seconda dei casi, litigando, discutendo, votando e facendo votare. E voi resterete lì a soffrire, a sognare, ad aspettare, fermi, ad osservare i grandi spettacoli che questo grande palcoscenico del mondo ci offre, ad attendere il Redentore che trasformi la vostra troppo solida carne in spirito. Perché voi, siete peccatori, in attesa di un Dio che tolga da voi i vostri peccati. Amen. C'era una volta Ink che andava per la sua strada. Era buio, ma a lei non dava fastidio, perché era abituata, andava sempre nel buio e vi si trovava bene. Il suo era un andare passivo, di riflesso, e infatti rifletteva mentre andava, ma senza farsi domande, perché non aveva bisogno di domandarsi nulla, aveva già tutto e sapeva già tutto, o almeno così credeva. Nello stesso tempo, pensate un po', ma dalla parte opposta del nulla, anche Yang andava per la sua strada, ma il suo andare era diverso. Innanzitutto andava nella luce, sempre. Ma anche a lui non dava fastidio perché vi era abituato. Il suo andare era attivo, come alla continua ricerca di qualcosa, ma senza pensiero, perché non sentiva la necessità di pensare, perché aveva già tutto, sapeva già tutto, o almeno così credeva. In quel tempo, Ink, andando nel freddo del suo cammino, continuando a salire nel suo mondo fluido, si ritrovò a superare i limiti dello spazio conosciuto e arrivò dove mai prima era arrivata. In quello stesso tempo, pensate un po', dall'altra parte del tutto, anche Yang, continuando a camminare nel suo andare caldo verso sud, scendendo con quel suo solito moto ardente, si ritrovò a superare i limiti dello spazio conosciuto e arrivò dove mai prima era arrivato. Fu così che Ink e Yang, che mai avevano visto altro al di fuori del loro mondo abitudinario, si incontrarono e fu amore. Siamo costantemente all'interno di una forma, in continua evoluzione, ma pur sempre di una forma si tratta. Una forma costituita da due energie opposte. Che cosa assurda! Che due energie opposte possano essere vita. Un'energia calda senza massa che continua a premere contro le pareti di un'energia fredda che la tiene chiusa. È questo che accade nelle cellule. E questo incontro dà vita a un movimento costante che è quello della spirale. Proprio lo stesso che ritroviamo nelle galassie. Questo stesso disegno, questa forma la ritroviamo anche nelle cellule, ma anche nel feto e nell'orecchio. Ma voglio andare avanti e esaminare ancora meglio questa forma. Cosa c'è dentro? Da cosa è data? Il rapporto che c'è tra un'angolatura e l'altra che crea il movimento della spirale sappiamo essere di 1,618. E questo rapporto viene utilizzato da sempre per rappresentare i canoni della bellezza. L'uomo di Leonardo, l'uomo vittoriano, ne è l'esempio più evidente. Leonardo lo ha disegnato rispettando le misure della sezione aurea, ma anche il rapporto tra la distanza degli occhi e la larghezza della bocca di una persona si avvicina a 1,6. E il braccio, il rapporto tra le lunghezze delle ossa del braccio dà 1,6. E il rapporto tra il valore minimo e il valore massimo della pressione sanguigna di una persona sana si avvicina a 1,6. Ma allora forse l'uomo uguale all'universo. Quella stessa potenza presente nell'universo potrebbe essere dentro ogni essere umano. Ma allora perché l'uomo non manifesta questa sua bellezza nel mondo? Perché non porta questa sua forza fuori, con altri uomini? Perché? Perché? Già, perché? Mamma, perché la luna esce di sera? E perché la luna mi segue quando sono in macchina? E perché la luna non cade sulla terra? Perché la terra gira? Perché la terra gira e noi no? Mamma, perché voglio andare sulla Luna? Perché non voglio stare sulla Terra? Papà, perché piove? Perché l'arcobaleno si vede solo dopo che piove? Perché nell'arcobaleno non c'è il nero? Perché ti vesti sempre di nero? Perché i preti si vestono sempre di nero? Perché tu non sei un prete e ti vesti sempre di nero? Mamma, perché sono triste? Mamma, perché Gesù è sempre triste? Perché papà è sempre arrabbiato? Perché papà non mi guarda? Perché non gioca con me? Perché non giochi tu con me? Perché? Dottor Freud, le confesso un pensiero venuto in mente pochi giorni fa. Un bambino, prima di venire al mondo, passa 9 mesi all'interno dell'utero materno ad una temperatura calda di circa 37 gradi centigradi, per trovarsi di colpo in un ambiente a 18-20 gradi. Un inizio abbastanza sgradevole, lo shock della nascita. Poi, come esce, viene preso per le gambe e picchiato sul sedere. Il primo saluto è dunque uno schiaffo. Il secondo saluto è che viene tolto dalla madre. Cosa dovrebbe rispondere il bambino a tutta questa violenza? No, un rifiuto esistenziale. E non potendolo esprimere, lo porta con sé, come una corazza, per proteggersi dal mondo. Gli studi che compio, però, mi stanno portando verso una possibile soluzione alle patologie psicofisiche che si sviluppano nell'uomo sin dall'infanzia. Wittenreich. Caro Reich, apprezzo il suo entusiasmo per gli studi che sta portando avanti e indubbiamente riconosco il valore tecnico delle teorie a cui lei è giunto. Sono certo che esse saranno risolutive di molte patologie psicofisiche dell'individuo, ma le suggerisco nelle sue ricerche di agire con cautela e di non trascurare i contributi e gli studi altrui, tra i quali quelli del sottoscritto. Le ricordo a tal proposito le parole del maestro Sachs: bisogna insegnare le linee di comprensione dell'inconscio, così faticosamente scoperte dal dottor Freud, e rafforzare l'obbedienza assoluta alla sua posizione teorica. Certo di una sua comprensione. Sigmund Freud. Dottor Freud, ho fatto una scoperta miracolosa, eppur semplice. Sto parlando di una forma di energia presente nel nostro sangue sotto forma di particelle luminescenti di colore blu-verdastro che si muovono a spirale, in grado, se aiutate a prolificare, di ristabilire il benessere psicofisico degli individui. Questa stessa energia permea l'universo, tutto, e dà origine alla pioggia, agli uragani, alle galassie. Chiamerò questi corpuscoli orgoni. Per riprodursi gli orgoni hanno bisogno di scaricarsi. A questo serve l'orgasmo, dottor Freud. Durante l'incontro sessuale, dopo la fase della carica tensione, c'è la fase della scarica distensione, dove l'orgasmo ristabilisce l'equilibrio interno, evitando gli eccessi di energia orgonica. Ma se questo flusso viene arrestato, nascono inevitabilmente dei disturbi mentali, le cosiddette nevrosi, che creano una chiusura costante al mondo che ci circonda. Dottor Freud, io, come terapeuta scienziato, ho il dovere di lavorare non solo a livello individuale ma sociale, per ristabilire il benessere tra gli individui. Per questo, al contrario di ciò che le teorie religiose e la miseria terapeutica vogliono farci credere, io sostengo che l'orgasmo non abbia come prima e unica finalità quella della riproduzione, ma quella di preservare intatto l'equilibrio energetico dell'organismo e mantenere vive le funzioni biologiche di ogni individuo. Da ciò consegue che la repressione sessuale è causa delle future patologie psichiche. Per questo sostengo fortemente che i rapporti sessuali tra gli adolescenti vadano incentivati e non repressi. Mangiatemi, cieli e la terra, mangiatemi qui, sono pieni, eccolo qua, della mia gloria. Chi ha mai detto che non bisogna curare, coltivare, adorare i santi e gli angeli? Chi lo ha mai detto? Chi? Gesù Cristo lo ha detto. Ha sempre rifiutato di essere oggetto di culto. Rifiutate di farvi chiamare maestro o guida, disse. Ah sì? Sì, sì, è vero, è vero. Ma tanto tempo fa. E poi voi che ne sapete? Ve lo dico io allora. Che ne volete sapere voi dell'enorme fatica volutaci per arrivare a costruire una religione sana e credibile, lontana dalle false dicerie? Volevate forse credere agli astri, agli oroscopi? Ebbene, non siate così bassi. Prendete come esempio la vita di Cristo, uomini, e anche voi, donne. Però non c'è una figura femminile da adorare. Come non c'è? Inventiamola! Come si chiama quella storiella? Sono tutti uguali. Prendiamone una, no? Diana, Iside, Artemide, è lo stesso. La storiella della Vergine col bambino in braccio. Bello, no? Bene. Ispiratevi a loro per raggiungere il paradiso dopo le lunghe sofferenze da patire giustamente su questa terra. Non lasciatevi bloccare nel purgatorio, ma lottate per arrivare in paradiso. Veramente il purgatorio non esiste. Non c'è nessuna testimonianza del purgatorio e nessuna scrittura. E allora scriviamo noi! Oh, sì, potete farcela raggiungere il paradiso. Parlate con me, un piccolo regalino, e io metto una buona parola lassù per voi. E nel frattempo pregate. Non vi possiamo dare un'immaginetta? Un giocattolino da tenere nelle mani, un passatempo per tenerli occupati? Il rosario, snocciolate! In attesa di passare a miglior vita, pregate, baciate, regaliamo qualche immaginetta, perché le cose belle vanno regalate! Se poi voi, spontaneamente, lasciate un'offertina, un aiutino è sempre ben accetto. Dobbiamo essere forti per prenderci cura di voi. Quindi, anche qui, per favore, niente distrazioni. Le donne con le donne e gli uomini con gli uomini, separati! Ma veramente, nel Nuovo Testamento c'è scritto: se uno non sa gestire la propria famiglia, come può gestire la casa di Dio? No! Vi voglio soli! Gesù Cristo non ha mai avuto rapporti sessuali. Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo, per grazia divina. E soprattutto Gesù Cristo non si è mai toccato il pisellino, chiaro? Quindi non fatelo neanche voi. E se proprio non riuscite a non cadere in tentazione e la vostra debole carne cede, potete sempre tornare qui, dove troverete qualcuno pronto a espiare i vostri peccati nel mondo con una piccola pillolina, un pezzo di pane. Carne di Cristo è offerta in sacrificio per voi. Trasformerò il pane in corpo di Cristo. Però San Tommaso diceva: il regno dei cieli è già dentro di voi. Sì, è vero, ma bisogna imparlo a entrare. Noi siamo la vostra grande madre, che bagnerà le vostre piccole fronti da appena nati per marchiarvi sani da subito, per liberarvi dal peccato originale che noi tutti abbiamo. Hai scritto tutto? Bene, così è scritto, dunque così sarà. Perché? Chiedete il perché. Perché la gente ha bisogno di obbedire. Più assurdi sono i dogmi, più servili saranno i fedeli. Maschi, è arrivato il macchinino. Avete energia da vendere? Noi ve la compriamo. Maschi, è arrivato il macchinino. Avete energia da vendere? Noi ve la compriamo. Non ti fermare. Scendi. Prendi una direzione. Stai pensando? Non pensare. Lasciati guidare. Vai avanti. Veloce. Corri. Non ti fermare. C'è da scappare per raggiungere il traguardo. Devi essere pronto a tutto. Allora preparati a lottare per colpire e colpire duro. Sali. Non ti fermare. Scendi. Prendi una direzione. Stai pensando? Non pensare. Lasciati guidare. Vai avanti. Veloce. Corri. Non ti fermare. C'è da scappare per raggiungere il traguardo. Devi essere pronto a tutto. Allora preparati a lottare per colpire e colpire duro. Il tuo fucile è il tuo migliore amico. La tua pistola è la tua unica donna. Sfoga con lei le tue pulsioni. Se ne hai ancora. Fammi vedere quanto sei maschio. Dai, corri. Veloce. Ti voglio duro, tonico. Lavoro. Su e giù. Forza con questi piegamenti. Sei piegato abbastanza. Ti voglio più piegato. Ancora un po'. Così, piegato. Tirati su. Che fai? femminuccia. Oh Cristo, non credevo di avere a che fare con una femminuccia. Hai fatto la ceretta, hai cambiato l'assorbente. Forza, sei un uomo rincoglionito, e alza quella testa, usa questo corpo. Non te l'hanno insegnato che hai un corpo e che lo devi usare? O lo usi solo per sbarettarti il pistolino? E allora fammi vedere, dai, fammi vedere quello che sai fare. Avanti, a colpire, forza. Non siamo mica qui a scrivere poesie. Corri, corri, dai, sali, sali, sali. Scendi, scendi, scendi, prendi la direzione, dai. Considerate streghe allontanate, a volte è vero, bruciate. Dovremmo tornare a coprire i corpi, Prendendo esempio da Eva, che non appena si scoprì nuda davanti ad Adamo, foderò il suo sesso con una foglia di fico. Dio lo proverebbe. Dovremmo proporre delle divise simili a quelle degli ordini clericali che chiudono ogni spiraglio di pelle. La realtà, cittadini, è che se ormai raggiunta e superata una totale libertà nel modo di vivere, da non poter più tornare indietro, siamo qui, in quest'epoca di provocazioni, lussuria e vizio. E l'unico modo di affrontare migliaia di violenze sessuali è la galera. Mi scusi, Presidente, io credo che la strada della prevenzione sia percorribile. Bisogna chiedersi realmente perché avvengano tali violenze, chiedersi perché l'uomo abbia delle pulsioni così nevrotiche da desiderare di possedere una donna che non vuole essere posseduta. E questo è il reale problema. Perché l'uomo prova eccitazione nel sentirsi rifiutato? Perché, perché, perché? Non abbiamo tempo di porci interrogativi. L'unica risposta è la galera. Perché il cielo è blu? Perché i pomodori sono rossi e le zucchine verdi? Perché i maschi hanno il pisellino, le femmine il fiorellino? Perché gli uccelli volano? Perché bisogna rispettare le regole? Perché i numeri non finiscono mai? Perché dobbiamo studiare il latino se non si parla più? Perché le mamme e papà devono lavorare tanto? Perché non riesco a metterti il sorriso in faccia? Perché i genitori sono severi con i bambini? Perché esiste il punto di domanda? Perché dopo un po' di tempo le persone non si amano più? Perché mi viene il mal di testa? Perché non mi posso mimetizzare come il camaleonte? Perché sono nato? La sua risposta, dottor Reich, è dunque il piacere. È vero. Gli uomini cercano il piacere e la felicità. E questa ricerca domina il loro apparato psichico per tutta la vita. Ma bisogna rendersi conto che la felicità è assolutamente irrealizzabile. Tutto l'orientamento dell'universo, infatti, si oppone alla sua attuazione. Si potrebbe addirittura affermare che quando Dio creò il mondo, non contemplò la minima possibilità che l'uomo fosse felice. Dottor Freud, ogni bambino nasce felice, perché si sente libero di saltare, ballare, cantare, di esplorare i suoi genitali. Poi, crescendo, viene schiacciato dalle regole, qui che finisce la sua felicità. La felicità, dottor Freud, è concreta. Equivale al benessere fisico che l'uomo prova quando nel suo corpo si ristabilisce un certo equilibrio energetico. L'orgasmo serve a questo, signor Reich. Lei ha assolutamente torto, l'uomo è condannato all'infelicità. Ed è per questo che le sue pulsioni vanno rimosse. Dottor Freud, l'infelicità è la conseguenza di un'educazione deviante che giudica erroneamente la sessualità. Signor Reich, la felicità è un'illusione. Bisogna rimuoverla, dimenticarla. Il nostro corpo è condannato alla decadenza e alla dissoluzione. E allora perché la scienza sogna costantemente di prolungare la vita? E il mondo esterno può interferire su di noi con forze superiori e distruttive. Allora perché milioni di combattenti sono morti in nome della libertà? La schiavitù fisica e sociale è stata ridotta. La peste è stata vinta. Allo stesso modo sarà possibile vincere il cancro, le guerre, l'ipocrisia moralistica che storpia i nostri bambini e i nostri adolescenti. Dottor Reich, è psicologicamente giustificato che la nostra cultura proibisca le manifestazioni della vita sessuale nei bambini. Sono già tante le violenze carnali che ogni anno colpiscono i nostri paesi. Non voglio immaginare cosa potrebbe succedere se dall'età infantile si lasciassero gli uomini liberi di esplorare la loro sfera sessuale. È qui che si sbaglia, dottor Freud. È proprio la sessualità repressa nella tenera età a provocare violenze tra gli adulti. Se fin dall'inizio si lasciasse la sessualità libera di espandersi, l'uomo non proverebbe mai piacere nel sentirsi rifiutato, ma andrebbe solo dove sente amore e benessere per sé, e quindi sarebbe felice. Sarebbe l'anarchia, signor Reich. L'uomo ha bisogno di regole e di certezze. Ad ogni modo, se per puro caso lei dovesse avere ragione, un giorno dovrà portare da solo il pesante fardello delle sue teorie. Perché sarebbe sempre strano, anche quando strano, i sorni, quando lo dedicano, ride più forte, deve nascondere qualcosa. Non vedete quel che con sconosciuti, un poco di contento non sarebbe male. E come abbraccia i bambini, è un po' esagerato, non pensate. Senza altro deve venire dal cielo. I mortali si spronzano, si raccontano le loro proprie storie. L'uno. Non avete mai sentito parlare male di qualcuno? Ma chi si crede di essere? Qualche cattiveria ogni tanto si può fare, si deve. È umano. Noi non siamo santi. La vita è così dura. Almeno ci si è data la possibilità di fare qualche pettegolezzo, qualche litigata, qualche tradimento. Se no, che vita è? Poi i figli, che non stanno mai fermi, e ti fanno tutte quelle domande. E anche io quando non camminavano e non parlavano, eravamo ben tranquilli. Invece lui è sempre lì pronto a rispondere, a cercare la verità. La verità non è di questo mondo, e il mondo è com'è. Cerchiamo di essere buoni cittadini. Siamo cortesi con i padroni. Non possiamo farci nulla se loro comandano e noi dobbiamo venire. È la volontà di Dio! Magari nell'altro mondo. È vero. Ci comunica un certo brivido quando parla. Ma se davvero è così sicuro della sua forza, si rivela in modo grandioso. Ci dia un segno. Dovrebbe cominciare a fare qualcosa di importante. Dovrebbe far conoscere al mondo la sua grandezza, allora lo seguiremo. Abbiamo bisogno di qualcosa di rumoroso, di esplosivo, qualcosa di marce, di grida, di fanfare. Abbiamo bisogno di una guerra. Avete bisogno e voglia di sbarazzarvi definitivamente di ogni vostra malattia? La soluzione è a portata di mano. Aspirina al giorno potrebbe ridurre del 30-40% il rischio di contrarre il cancro all'intestino, allo stomaco o all'esofago. Studiamo registrare 18.000 morti a causa degli effetti collaterali, ma occorre che consideri esplicitamente il rapporto ben evidente tra 122.000 e 18.000. Un po' d'acqua sporca nel deserto è meglio che niente. Insieme possiamo farcela. Che la medicina sia il vostro cibo. Prendete e mangiatene tutti. E lei, signor Reich, badi bene che quello che conta non è cosa si spera, ma la speranza stessa. La gente ha bisogno di riempirsi. E a tutta l'odierna comunità di psicologi, psichiatri, fisici e scienziati che mi rivolgo, colleghi, sostengo che i disturbi fisici sono causati da traumi emotivi che subiamo da piccoli, in solitudine e impotenti. E quelle che noi definiamo malattie, come la febbre, le infiammazioni e persino i tumori, altro non sono che una forma di difesa con cui il corpo cerca di riparare i tessuti organici che si sono deteriorati molto tempo prima a causa di quegli stessi traumi. La medicina ufficiale tenta di distruggere la cellula cancerosa senza domandarsi perché e come si forma. Colleghi, ho scoperto che da materie inorganiche morte rinasce qualcosa di vivo. Fili d'erba messi dentro a un liquido a una temperatura altissima muoiono e si decompongono, ma poco dopo, ammassate a quei fili d'erba morta, compaiono piccole vescicole azzurrognole. Le ho chiamate bioni. Essi si attraggono e si fondono, creando col tempo incredibili cambiamenti. La scoperta che mi preme condividere con voi, colleghi, è che la disintegrazione di alcuni tessuti del corpo umano provoca la formazione dei bioni che, unendosi, creano la cellula cancerosa. Questa non è dunque una cellula cattiva o malata, ma è il tentativo naturale e spontaneo dell'organismo stesso di ripristinare un tessuto che per altre cause già da tempo sta morendo. Da ciò consegue che la cellula cancerosa non è la causa della malattia, bensì la sua conseguenza. E tutte le terapie atte ad eliminarla sono destinate al fallimento, perché colpiscono la conseguenza e non la causa. La domanda da porsi, colleghi, è perché si disintegrano i tessuti? E qui entra in gioco l'orgone. L'energia sessuale e l'energia biologica sono una forma di energia orgonica e hanno la stessa funzione. La mancanza di scarica dell'eccitazione sessuale attraverso l'orgasmo crea un conflitto psichico che provoca nella persona un comportamento rigido, la cosiddetta corazza caratteriale. La corazza riduce la sensibilità dell'uomo all'ansia e al dolore, ma riduce anche la sua vivacità interna. La corazza consuma energia biologica e per questo i tessuti iniziano a disintegrarsi. Il cancro, le malattie cardiovascolari, l'ulcera, la gastrite, l'epilessia sono reazioni del corpo a un disturbo bioenergetico. Immaginate un bambino che si tocca il pene e sta provando eccitazione. Se viene sgridato, blocca per reazione il suo desiderio, i suoi muscoli si irrigidiscono. Pensate a un bambino che gioca per casa e che venga sgridato. Pensate a un bambino che ponga domande sul mondo che non ricevono risposte. Ora moltiplicate questi episodi per tutte le volte che quel bambino verrà frustrato nei suoi slanci istintivi. L'energia che si accumula nel suo corpo, non essendo scaricata all'esterno, si sfoga dentro, deteriorando i tessuti. Per reazione si aggregano i bioni e creano la cellula cancerosa, quella che voi chiamate cancro. È venuto il momento, colleghi, di domandarci a che età e come vengono gettati i semi delle future malattie, per proteggere i bambini del futuro. Mamma, chi è più forte, il ghepardo o la tigre? Perché si va a fare la mamma? Papà, quanto fa 1321 più 23.523 più 3.651? Mamma, dove finiscono i sogni al mattino? Papà, come nascono i bambini? Perché la mamma lava i piatti? Perché quando sei felice il tempo vola e quando ti annoi non passa mai? Ma da grande potrò sposare, papà. Mamma, perché piangi? Papà, è vero che discendiamo dalle scimmie? E allora perché le scimmie non diventano uomini? Perché si danno i nomi alle persone? Perché le persone ridono? Perché mamma piange? Perché nei libri vincono sempre i bravi? Perché si dice perché? Perché sono felice? Perché non posso uscire a giocare? Perché nelle conchiglie si sente il mare? Perché il cane abbaia? Posso fargli una carezza? Perché dici che è morte? Perché non mi fai una carezza? Perché sbadiglio? Perché mi viene la febbre? Perché ho gli occhi? Perché ci vedo? Perché devo stare al buio? Perché mi hai fatto la bocca? Perché si muore? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché sì? Perché no? Perché così? Ascoltate questo comunista, sessualista, giudeo, straniero, intellettuale, anarchico, individualista, ingannatore, sognatore, visionario, utopista, pazzo! Il dottor Wilhelm Reich è un pazzo! Ha tentato con le sue ricerche di illudere gli uomini di avere un qualche potere negli avvenimenti della storia, quando sappiamo bene che l'individuo è impotente rispetto ai grandi processi storici ed economici della società umana. Essi si verificano autonomamente per leggi intrinseche alla storia, all'economia e alla società. Nessun uomo può decidere. Nessun uomo può agire. Così è e così sarà nei secoli dei secoli. È la volontà di Dio. Lui stesso ha accettato che il figlio morisse e non è intervenuto per dimostrare agli uomini che bisogna secondare gli eventi e non opporsi ad essi. Lui ha lasciato che gli uccidessero il figlio per dimostrare che la giustizia non appartiene alla terra ma al regno dei cieli. L'uomo deve imparare a farsene una ragione. Bisogna che noi abituiamo sin da subito i nostri figli all'obbedienza. In questo modo saranno già pronti ad entrare nel mondo. Non bisogna raccontargli favole, poiché non appena entrano nel mondo vengono delusi e soffrono. Bisogna aiutarli a costruire una corazza sin da piccoli, in modo da potersi difendere dagli attacchi del mondo esterno. Pensatori eretici come il qui presente dottor Wilhelm Reich dicono di voler far riscoprire all'essere umano la libertà e la felicità, mentre in realtà segnano il tracciato per le future depressioni dovute alla presa di consapevolezza che c'è qualcosa molto più grande di noi, che decide per noi, che vive per noi, e noi siamo solo di passaggio su questa terra in attesa di una migliore vita. A quest'uomo, il dottor Wilhelm Reich, non è bastato fermarsi all'ambito di sua competenza. Egli ha scavalcato i confini e si è occupato di politica, fisica e persino di medicina. Quest'uomo sostiene che l'individuo possa curarsi da solo. Quest'uomo lascerebbe i malati morire senza aiutarli con i farmaci che le attentissime ricerche scientifiche vanno scoprendo e che le grandi aziende farmacologiche mettono per nostra fortuna sul mercato. Quest'uomo, che non merita più di essere chiamato dottore per l'infondatezza delle sue teorie, viene a parlarci di energia vitale, di ori, di orgogli, fandonie! Quest'uomo pensa che lasciando i bambini liberi di giocare, di ballare, di esplorare i loro sessi, da grandi non si ammaleranno. Che Dio lo ripeta il peccato. Ma come? Abbiamo l'esempio di un uomo che dal cielo è venuto sulla terra per espiare il nostro peccato originale. Un uomo che è nato grazie allo Spirito Santo. Dio, attraverso di lui, ci ha mandato a dire che i nostri organi sessuali vanno custoditi e che devono essere utilizzati solo per mettere al mondo figli. E il signor Reich si ostina a parlare di orgasmi, di piacere, fandonie! Lei, signor Reich, brucerà all'inferno! Lei, signor Reich, andrebbe spedito dritto nella bara! E si ritenga fortunato se le lasciamo vivere ancora i suoi giorni su questa terra. Lei è un ciarlatano. L'energia vitale da lei definita orgone, che secondo lei sarebbe presente nell'uomo e in tutta l'atmosfera, non esiste! Prendo pertanto vietato ogni riferimento all'energia orgonica e chiedo pubblicamente che si faccia ogni cosa in nostro potere per eliminare le conoscenze su tale energia dalla faccia della terra, perché vi ripeto, essa non esiste! Ordino di distruggere ogni documento che menzioni la parola orgone e di bloccare chiunque voglia seguire la strada di questo folle. Do ordine altresì di bruciare i risultati degli studi, gli appunti e tutti i libri frutto delle ricerche del signor Wilhelm Reich. Infine, condanno il signor Wilhelm Reich a 3 anni di reclusione. Se si vuole aiutare la conoscenza, bisogna avere il coraggio di sostenere le idee eretiche. Dovremmo essere scientifici, non politici, vostro amore. Sapevo che mi avreste imprigionato. L'ho sempre saputo ogni volta che ho cercato la verità, attraverso un microscopio, osservando l'atmosfera o ascoltando i miei pazienti. Ogni volta che ho detto ad alta voce quello che ho visto, perché io ho visto. E questo rende me felice. Ho visto. Forse voi non vedete, ma so che intuite quanta potenza vibra dentro al mondo, nell'aria, nel sole, nell'uomo, e ne avete paura. Per questo vi chiudete la bocca. Non provo odio per lei, né per chi brucerà il mio lavoro. Non odio chi ha ammazzato Cristo, né chi vestito di rosso o di nero uccide milioni di persone. Provo tenerezza per i bambini che eravate. Vi sono stati estirpati la curiosità e il coraggio. Nei vostri petti in fuori ci sono le carezze e le risposte che non avete ricevuto. Nei vostri discorsi altisonanti, le lacrime di bambini senza amore. Controllando gli uomini, vi illudete di controllare la vita, come hanno controllato voi. Ma la vita non si controlla. Moriremo. Tutti. So che vi distruggerete fisicamente, ma so anche che continuerò a vivere nella memoria umana. Almeno fino a quando il nostro pianeta galleggerà nell'oceano infinito dell'energia organica. Potrò patire il disastro fisico, ma la vergogna e il disonore no. Quelli potrete leggerli sui volti di chi, ispirato dall'affarismo, si è messo all'opera per uccidere ancora una volta la verità. Mi domando, se l'energia organica non esiste, come voi sostenete, perché non la si ignora semplicemente? Se essa non costituisce un pericolo, perché scagliarle contro tutta questa furia? Voi volete distruggere l'energia vitale per creare un mondo pieno di odio, ostilità, malattia e morte. Volete che le persone siano arrabbiate, spaventate, vivano nel caos, poiché solo così potrete averne il pieno controllo. Avete distorto le parole di Dio. Lo avete reso un'entità onnipresente che dall'alto controlla e punisce per reprimere nell'uomo il piacere. Avete fatto di Cristo un martire che risorge. Per educare l'uomo all'obbedienza, Cristo non è risorto, poiché dalla morte non si risorge. E l'uomo non deve pregare, deve respirare. Un individuo sano che abbia abbastanza da mangiare non ruba. Un individuo sessualmente felice non ha bisogno di morale o religione. Fondamentalmente la vita è semplice, il sistema la complica. Questo è un mondo dove c'è sempre denaro per pagare mille guerre e non c'è mai un soldo per aiutare la vita. Un mondo dove la verità è sospetta. Ma tu, uomo, non devi obbedire. Non vivere una verità che non ti appartiene, perché quella si trasforma in menzogna e ti mangia il corpo fino a farti morire. Vivi la tua verità, come ti vivi un braccio, il fegato, le ossa, e lascia che gli altri vivano la propria verità. Impara a riconoscere l'onestà, a distinguere l'espressione di un volto sincero da quella di uno bugiardo. Tu sei grande, uomo, ogni qualvolta non ti comporti in modo piccolo e meschino, quando curi il tuo lavoro con amore, quando ricavi gioia nel costruire, nel seminare, nella rugiada del mattino, nella musica, nel ballo, nei tuoi figli, quando alzi gli occhi per comprendere il tuo cielo pieno di stelle, quando vuoi sapere quel che altri uomini ed altre donne pensano della vita, quando di fronte alla giustizia e alla cattiveria fai parlare il tuo cuore. Sei grande quando anziano, tieni in grembo tuo nipote, quando guardi al futuro con la sua identica infantile curiosità, quando mantieni puro e libero il senso della primavera e il suo vento mite, quando respiri. Io vorrei che questa vita imparasse ad amministrare i suoi diritti. Siate abbracciati, uomini. Imparate a combattere per la vita nello stesso modo in cui finora avete combattuto per i padroni e per la ricchezza. E ascoltate cosa vi succede nel corpo quando state bene, quando amate teneramente, quando create, quando costruite la vostra casa, quando nascono i vostri figli, o quando guardate le stelle di notte. È quella la risposta. E quando vostro figlio vi domanderà: papà, dove è andato a finire il sole? Rispondetevi che ritornerà. Ritornerà sempre. La vita non può morire. Rinascerà in ogni fibra di ogni bambino, in ogni nazione della terra, in qualsiasi epoca, irrevocabilmente e irresistibilmente. Imparate dai bambini il piacere e domandategli perché esiste il male. Litigano perché cercherò di vedere le debolezze di ognuno di loro e farle un po' pareggiare. Sangue! Chiede scusa! Ho la tua bomba, ho l'arcobaleno, ho il mignoletto. Con la felicità! E giocano insieme. Poi diavoletto, diavoletto. Diavoletto, diavoletto. Fatto rete, pace, pace, rete, fa. Con i soldi di papà ci compriamo un baccalà. Con i soldi di papà ci compriamo un baccalà.